Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Sette e trenta minuti in punto, buongiorno a tutti da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Eccoci qua con Si può fare. Ben ritrovati, il buongiorno del weekend di Radio 24. Allora, tra poco cominciamo con una veloce rassegna stampa che ci accompagna fino al giornale radio delle 8. Il nostro numero sms 349-238-6666, se volete commentare insieme a noi i titoli dei giornali e poi dopo intervenire nel programma, si può fare. I nostri contatti, si può fare at radio24.it, la pagina Facebook, si può fare Radio 24, account su Twitter, lo sapete, chiocciola si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. Cominciamo subito, vai. E allora, eccoci qua con i giornali di oggi che insomma si offrono in ordine sparso di fare la cronaca intanto del sfacelo che sta avvenendo all'interno del Partito Democratico, una telenovela, poi notizie che riguardano l'America di Trump, notizie che riguardano il possibile controllo sui conti pubblici italiani e europeo, anche questa è un'altra telenovela, e poi anche altre notizie in ordine sparso. Oggi i giornali offrono spunti anche molto diversi uno dagli altri. Iniziamo allora col Corriere della Sera. Primarie, l'offerta di Renzi. Qui siamo all'interno della vicenda PD. L'ipotesi di farle slittare di un mese, ma per la minoranza non è sufficiente. Emiliano ottimista, possiamo evitare la spaccatura del Rio. Sposto la mia sedia per Bersani. E questo titolo lo ritroviamo con qualche sfumatura anche su Repubblica. Scissione, in questo caso si sottolinea il piano dei ministri del Partito Democratico al governo per evitare la spaccatura. Voto a settembre, congresso a dicembre, ma la minoranza non cede. Poi ci sono dichiarazioni di Pisapia, né con Renzi né con D'Alema. Nell'occhiello del titolo principale di Repubblica poi si rende conto anche delle vicende all'interno del Movimento 5 Stelle, soprattutto per quanto riguarda Roma e il progetto dello stadio. Veto della sovrintendenza sullo stadio della Roma, una notizia che tra poco vedremo. Che potrebbe mettere la parola fine su questo progetto dello stadio, su quel progetto dello stadio, magari non su un altro progetto, come dire, levando le castagne dal fuoco, si può dire così, alla dialettica interna al Movimento 5 Stelle e comunque alla giunta romana che deve decidere su questo progetto, perché se arriva un parere negativo della sovrintendenza che blocca e poi diventa difficile andare avanti. La Stampa ancora sulla questione interna del Partito Democratico. PD, D'Alema accelera subito la scissione, rischi per il governo. Ora, poi andare avanti, stop alla mediazione di Franceschini, Fassino indeboliscono Gentiloni, Emiliano dice Renzi ha voluto rompere. C'è anche il fuori onda di Del Rio che in qualche modo, fedelissimo di Matteo Renzi, ammette che sulla vicenda del Partito Democratico Renzi ha voluto in qualche modo lui stesso lo strappo, non ha fatto niente per evitarlo. Ora, mettiamo la sigletta, vai, possiamo dedicare a questa vicenda, sembra un po', eccola qua, tac, vedi, che casa Vianello, lo ricordate? Ecco, i litigi tra Sandra e Raimondo, se non fosse che qua stiamo parlando di cose anche serie, c'è di mezzo il Parlamento, il governo, le istituzioni più importanti del paese, però non possiamo fare a meno anche un po' di riderci sopra e di, come dire, di vedere anche il senso del ridicolo di tutta questa sequela di dichiarazioni. Casa Vianello, tra l'altro io sono stato, si sente forse anche dalla voce, qualche giorno via, sono stato in vacanza, sono stato in montagna e un po' lontano anche dai giornali, ho visto qualcosa sull'iPad eccetera, qualche notizia, però devo dirvi che si fa fatica a capire di cosa stanno parlando quando i giornali, quando parlano, ma anche vale per i telegiornali, ma anche per le radio, per tutti, quando fanno la cronaca di queste vicende di casa Vianello, casa PD. E proviamo a capirci qualcosa. E allora, vediamo, per esempio... Oh, intanto, tanto per dire di cosa stiamo parlando, c'è un sondaggio sul Corriere di Nando Pagnoncelli che cioè, taglia un po', anche in questo caso uso una frase fatta, la testa al toro, perché dice la sinistra sola vale il 6,5%. È un sondaggio, naturalmente, quindi non vale per quello che vale, però chiarisce un po' anche quali possono essere le ambizioni della scissione, degli scissionisti, di Bersani, D'Alema e compagni, che non vuol dire che automaticamente un giudizio positivo implicito nell'andamento di questo Partito Democratico, vuol dire semplicemente che diciamo, in questo momento i sondaggi non registrano da parte degli italiani un interesse per un partito, un nuovo partito di sinistra, che in realtà è un vecchio partito di sinistra, perché sempre sul Corriere, se volete, ci si può divertire a tra sigle e scissioni una storia lunga oltre un secolo. Si comincia col Partito Socialista 1892, poi la prima scissione nel 1921, nasce il PC, poi nasce il PSDI nel 47, poi il PSIUP nel 64, il PDUP nel 74, poi c'è il Partito Democratico di Sinistra nel 91, Rifondazione, IDS, Comunisti Italiani, il PD, Sinistra Ecologia e Libertà. Vabbè, poi ce ne sono metà di queste sigle che sono già state dimenticate, non vengono più riportate neanche in un elenco storico. Ma torniamo al sondaggio, un sondaggio di Pagnoncelli che in questo momento rileva il Partito Democratico al 30,1%, al 30,9% il Movimento 5 Stelle, quindi in leggero vantaggio, stabile nonostante le difficoltà, gli inciampi a Roma che ci sono, anche se poi insomma hanno riguardato per il momento in maniera tangenziale la giunta. Ci sono state delle dimissioni di assessori, ma insomma per il momento è più quello che il non fatto del fatto a Roma, forse. E comunque il Movimento 5 Stelle è al 30,9%, il PD diciamo al 30,1%, Lega e Forza Italia sono al 13%, separatamente, quindi insieme, anche in un'ipotesi di alleanza, sarebbero comunque sotto la soglia del 30%, che invece viene raggiunta dal PD e dal Movimento 5 Stelle. Per questo ipotetico partito di sinistra che potrebbe andare a nascere, Pagnoncelli rileva un 4,3% di persone che lo voterebbero, più un 2% di persone che sarebbero orientati a votarle. Vai a sommare e scopri che siamo al 6,3%, non molto, per gente che è stata al governo, che ha l'ambizione di governare, tuttora stanno al governo, e va bene. Però vediamo il breve resoconto che fa il Corriere delle vicende interne. Un muro di rancore e incomunicabilità divide il mondo di Renzi da quello di D'Alema, Bersani e Speranza e dagli altri leader dell'ala sinistra. Vediamo di capirci qualcosa. La scissione è alle porte, forse è persino già avvenuta. Pressato dai suoi ministri, che a margine del Consiglio dei Ministri si sono riuniti per discutere di come scongiurare il peggio, il segretario del Partito Democratico tenterà il tutto per tutto fino a domani, quando poi ci sarà la nuova direzione del PD. Si annuncia, oltre che in diretta streaming, anche in diretta su alcuni canali. Enrico Mentana ha già annunciato una nuova maratona mentana, punta sulla scissione, sulla giornata decisiva, anche se di questa scissione, di giornate decisive, ripeto, nel Partito Democratico ce ne sono state già tante che poi decisive si sono rivelate non esserlo. Ma poi c'è anche l'intervista al Corriere in cui il leader Renzi apriva la minoranza, che però è stata vanificata, scrive ancora il Corriere, da un fuori onda, e qui siamo all'ultima notizia di Graziano Del Rio, che ma ha mandato su tutte le furie Matteo e rafforzato i sospetti di Bersani e compagni. Il fuori onda di Renzi dice: Renzi non ha fatto nulla per scongiurare la scissione. Dice questo: non ha fatto neanche una telefonata, ha detto Del Rio, che poi in varie interviste ha ridimensionato, smentito, ha detto: io ho discusso con Renzi su questa cosa, lui lo sa, non è che gli sto dando una pugnalata alle spalle, sto dicendo cose che lui sa. Avrei voluto che lui si impegnasse di più per evitare questa scissione, però tant'è. Sentire dire da Del Rio, che è un uomo di Renzi sicuramente, che è stato al suo fianco e lo è dalla prima ora, sentire dire che in qualche modo Renzi questa scissione l'ha voluta, beh, insomma, fa un certo effetto. Vado a leggervi però su Repubblica la dichiarazione di Del Rio, che cerca appunto di ridimensionare un po' questa sua sortita, che però appunto si concretizza così. A lui ho parlato, dice Del Rio rivolgendosi a Renzo, da fratello maggiore deve essere flessibile. Ho detto a Matteo, devi togliere ogni alibi per evitare la rottura nel partito. Il segretario ha la responsabilità dell'unità del Partito Democratico e deve sempre tenerlo presente. Quindi ne avevamo discusso e anche piuttosto animatamente. Gli ho chiesto di essere flessibile il più possibile in queste fasi. In ballo c'è il futuro dell'Italia e del Partito Democratico. Direi che su questo possiamo andare avanti, se non rendervi conto di come altri giornali con titoli meno teneri affrontano questa vicenda e anche un pochino più allarmisti da un certo punto di vista, come il giornale che scrive «Tornano i comunisti, capolinea PD, a ore potrebbe rinascere il partito della sinistra storica, un fuorionda incastra Renzi, vuole la scissione, tornano i compagni, da oggi partono le fibrillazioni dentro i democratici, tira aria di scissione, un fuorionda nel ministro Del Rio svela che è lo stesso Renzi a volere la spaccatura, non ha nemmeno fatto una telefonata». Così nella fotografia del giornale, che non è dissimile da quella di Libero, che scrive «Peggio della destra, c'è solo la sinistra». Questo è simpatico perché è anche autoironico in questa fase di difficoltà per la destra. «Tra i democratici un odio mai visto. La minoranza impone a Renzi condizioni impossibili per non dividersi. Matteo la manda al diavolo, ma c'è un colpo di scena perché Del Rio attacca l'ex premier e non è l'unico a farlo tra gli ex fedelissimi». Poi si rivolge anche al centrodestra, il panorama per Berlusconi, Salvini e Meloni è favoloso, coraggio, basta che non imitiate i compagni, cioè come dire state fermi, state tranquilli, non litigate come stanno facendo dentro il PD e tra un po' tornerà il vostro momento, perché ad autodissolversi, ad autoeliminarsi, ad autoannientarsi saranno i compagni del Partito Democratico e stanno facendo tutto da soli. Allora, detto di questo argomento principale, vengo ad altri titoli, per esempio titoli per esempio come La Stampa sulla economici sui conti pubblici, l'Eurogruppo un mese per correggere i conti. La Stampa segue sempre questa vicenda con una certa attenzione, lo fanno anche gli altri giornali, ma qua in prima pagina si dice che la Commissione tiene sospesa la procedura sul debito, ma i partner dell'euro chiedono di fare in fretta. Anche questa potrebbe meritare un casa Vianello, perché anche questa è questo litigio sui conti pubblici che va avanti tra Italia ed Europa con costanza, e poi riguarda anche altri paesi, ma insomma l'Italia in questo momento, poi per noi chiaramente siamo al centro, è fondamentale. Ma che dire, allora aggiornare su questa vicenda. La Commissione europea ha deciso, il rapporto sul debito dell'Italia sarà pubblicato mercoledì 22 febbraio, non ci saranno dilazioni e, questa è la notizia, salvo passi in avanti da parte del nostro governo, nei prossimi 3 giorni questo parere sarà negativo, cioè verso una bocciatura del debito italiano da parte dell'Europa, nel senso che il rapporto sul debito dell'Italia non terrà conto delle promesse fatte dal ministro Piercarlo Padoa nella sua lettera del 7 febbraio scorso, ricorderete la famosa lettera attesa dall'Europa con i chiarimenti sui le manovre che l'Italia ha in serbo di fare per tenere sotto controllo il debito. Bruxelles chiede impegni più precisi riguardo alle misure utili a ridurre dello 0,2% del PIL il deficit strutturale, ma questo non vuol dire che è già pronta ad aprire una procedura per deficit eccessivo, cioè giudizio negativo, ma la mano per ora non sarà una mano pesante nei confronti dell'Italia. Già che stiamo parlando di notizie economiche, vado su Sole 24 Ore per darvi questa notizia, diciamo che dopo il Consiglio dei Ministri giovedì scorso va aggiornato a questo punto il conto il pallottoliere, diciamo così, della riforma Madia. Sono 11 capitoli già attuati la riforma della pubblica amministrazione, 2 a metà del guado e 7 ancora da affrontare. Ecco, sul Sole di oggi si fa il bilancio di tutte le tappe dell'attuazione di questa importante riforma. Poi c'è il consueto rating 24 che misura anche la, diciamo l'effettiva, secondo il Sole 24 Ore, valenza, efficacia delle misure prese appunto dal governo. La cronaca dice: dopo i 3 mesi in più concessi per avviare la chiusura delle società partecipate, salta il taglio dei CDA, cioè scompare il decreto dell'economia che avrebbe dovuto decidere i casi in cui, attenzione, tema complesso, tecnico ma importante, i casi in cui mantenere nelle partecipate, nelle aziende pubbliche, i CDA di 3 o 5 membri invece dell'amministratore unico fissato alla riforma. Cioè la riforma fissa l'amministratore unico, i casi in deroga che possono prevedere 3 o 5 amministratori, il tutto per diminuire la pletora di amministratori, di consiglieri di amministrazione nelle partecipate, che vuol dire spese, ma spesso vuol dire anche ingestione, ingovernabilità, lottizzazione a parte dei partiti. Ecco, questa misura salta e la scelta viene rimessa nelle mani dei soci, cioè dei soci, cioè dei comuni, delle amministrazioni locali, cioè dei proprietari di queste società partecipate, che dovranno essere loro a scegliere in quali casi avere l'amministratore unico e in quali casi avere 3 o 5 amministratori. Indovinate quale sarà la scelta eventualmente più gettonata. Traffico, torniamo tra un attimo. E allora, lasciamo il Sole 24 Ore e andiamo, torniamo sugli altri giornali a caccia di notizie. Allora, su Repubblica un altro, il secondo titolo, un titolo principale, riguarda l'America di Trump, vuole 100.000 soldati antimigranti. Quindi si dà conto di questa notizia, poi smentita, rivelazione shock, poi la Casa Bianca smentisce, salta il candidato alla sostituzione di Flynn. Vediamo di che si tratta. Andiamo a leggere all'interno, la questione è questa. Scrive Repubblica: 100.000 soldati della Guardia Nazionale a caccia degli immigrati senza permesso di soggiorno? Punto di domanda. Al 100% non è vero, è irresponsabile dirlo. La smentita secca di questa notizia arriva dal portavoce della Casa Bianca, Sam Spicer, mentre accompagna Donald Trump sull'Air Force One diretto a una fabbrica della Boeing in South Carolina. Il portavoce spegne così una tempesta suscitata dall'agenzia di stampa Associated Press, che annunciava un piano per usare i dirigenti per usare i contingenti di riservisti militari nel rastrellamento di clandestini. E fin qua una notizia smentita. Associated Press però ribadisce: attenzione, dice, quel piano esiste, è un documento di 11 pagine che pianifica una militarizzazione senza precedenti ai confini col Messico, con i soldati impegnati in California, Arizona, Texas e New Mexico. Datato 25 gennaio, per 2 settimane questo documento è circolato nel Department of Homeland Security, che dirige anche le polizie di frontiera. La smentita di Spicer chiude a questo punto il caso, almeno per ora, vista l'imprevedibilità di questa amministrazione, chiosa la Associated Press. Cioè loro dicono: questo documento c'è, è circolato, evidentemente era solo un'ipotesi di studio, di scuola, insomma, però un'ipotesi impegnativa, per non dire inquietante. 100.000 uomini della Guardia Nazionale impegnati per controllare i clandestini. Però bisogna sempre ricordare, quando si parla di queste iniziative dell'amministrazione Trump, che il controllo della frontiera col Messico è sempre stato una priorità di qualunque governo americano, perché è un po' come una valvola, un po' lasciano passare, un po' bloccano a seconda della sensibilità politica del momento, ma ci sono già tratti di filo spinato, già tratti di muro, già tratti di controllo. Naturalmente poi Trump ha annunciato un inasprimento senza precedenti delle misure. In questo caso però la misura si rivela una non misura, cioè un'ipotesi al massimo, che non dovrebbe andare in porto. Detto di questo, torniamo alle vicende di casa nostra e alla questione dello stadio della Roma, perché aspettate, lo trovo il Messaggero, ecco che lo dà in prima pagina. sia anche il Corriere della Sera dicono, riportano questa parere della sovrintendenza. Anche qua si tratta di un documento che è circolato, non c'è niente a questo punto, per ora almeno, di ufficiale, ma insomma, tanto è che in prima pagina il Messaggero scrive: fermate lo stadio, alto là dei beni culturali, vincolo a Tor di Valle, vietato costruire edifici più alti delle tribune. Il Ministero dei Beni Culturali ha inviato il parere, che è già sul tavolo del gabinetto e del sindaco alla conferenza dei servizi. Stadio e grattacieli a Tor di Valle non si possono fare. Già poi uno dovrebbe cercare di capire come mai si fa uno stadio e poi si fanno anche degli enormi grattacieli a fianco, che c'entrano con lo stadio. Non è più il progetto dello stadio, è un altro progetto, ma insomma, questo è la sua intendenza, dice, non si possono fare. Al di là dei litigi e dei ripensamenti, quindi, scrive il Messaggero, della maggioranza 5 Stelle, questo atto potrebbe scrivere la parola fine. La stessa, diciamo, solfa è riportata anche dal Corriere. Vado a leggervela con sfumature leggermente diverse. Il Corriere titola: duello Grillo, Lombardi sullo stadio. Però la sovrintendenza ferma il progetto. Leggiamo quanto scritto al Corriere: se fosse per Beppe Grillo, che allarga un po' lo sguardo anche alle vicende interne del Movimento 5 Stelle, non facciamoci mancare nulla, parliamo del PD ma parliamo anche dei grillini, Roberta Lombardi avrebbe i giorni contati dentro il Movimento 5 Stelle. Ma non è così, per due ragioni: perché la deputata romana ortodossa ha un nucleo di fedelissimi e soprattutto perché le sue critiche si rivelano spesso fondate. Qua ci si riferisce proprio al progetto sullo stadio. Dalla Lombardi, criticato anche ieri in un post su Facebook molto pesante. E appunto, prosegue il Corriere, sembra il caso del nuovo discusso stadio di Tor di Valle. A poche ore dal messaggio di Roberta Lombardi, infatti, spunta fuori un documento importante. Lo ha scritto l'architetto Margherita Eichenberg, sovrintendente statale per l'archeologia, le belle arti e paesaggio per il Comune di Roma, è inviato a Roma Capitale il 15 febbraio. Nella sua lettera la sovrintendente spiega che è stata avviata una procedura che vincola con una tutela indiretta l'ippodromo e in particolare le tribune. Significa che non possono esserci costruiti edifici che sovrastano in altezza e densità le tribune dell'ippodromo a Tor di Valle, parole che potrebbero determinare lo stop definitivo al progetto. Poi sentite però le parole usate dalla onorevole Lombardi sulla questione dello stadio, parole pesanti. Dice: si tratta di una grande colata di cemento in una zona a fortissimo rischio idrogeologico. Questo è un piano di speculazione immobiliare che una società statunitense vuol portare avanti ad ogni costo, in deroga al nostro piano regolatore, nell'esclusivo interesse di fare profitto sulle nostre spalle, scrive Roberta Lombardi su Facebook, e noi non possiamo permetterlo. Questa è Roma e io non ci sto a vederla martoriata. Allora, mi sembra chiaro a questo punto che almeno sulla carta il progetto così com'è non piace al Movimento 5 Stelle, che guida la giunta di Roma, quindi o il progetto cambia o il Movimento 5 Stelle dovrà cambiare punto di vista e spiegare perché fa un progetto, porta avanti un progetto che viene definito come una colata di cemento su una città che va da sé di cemento. Su Roma ne è stato colato già parecchio, questo si sa. Allora, abbiamo ancora 2 minuti e mezzo, voglio lasciarvi intanto con una bella notizia per chi lavora in questa piccola azienda lombarda. Il Giorno scrive: 1.000 euro a chi non fuma. È la decisione originale, è un si può fare in piena regola, di Loris Garau, amministratore delegato di Dexanet, 42enne, un'agenzia specializzata nella realizzazione di siti web, che ha promesso ai suoi dipendenti 1.000 euro a chi smette di fumare. Però attenzione, perché bisogna avere costanza, cioè, il premio te lo danno al termine di 12 mesi di rinuncia dalle sigarette, quindi cioè, se uno riesce a stare 12 mesi senza fumare, sicuramente non so quanto, ecco, l'incentivo poi possa essere determinante, però è una ciliegina sulla torta che questo imprenditore illuminato di questa azienda bresciana ha deciso di dare ai suoi dipendenti. Attenzione, perché lui ha 21 dipendenti e c'ha 10 fumatori, quindi alla fine potrebbe costargli anche 10.000 euro questo scherzetto. Un'altra si può fare è questo, riguarda le farfalle. Sì, le farfalle, perché in prima pagina sul Corriere della Sera: si sono ridotte drasticamente negli ultimi 20 anni. in primo piano una foto di un esemplare raro di macaone appena uscito dalla crisalide. Le farfalle sono sempre più rare nelle nostre città e allora ecco che scatta l'operazione farfalle. Lavanda e ruta sui balconi per salvare le farfalle in città. In pratica è un progetto, ma è un progetto serio, del professor Gustavo Gandini, del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Milano, che invita tutti a piantare sui nostri terrazzi, tutti noi, nei giardini condominiali, nelle scuole, piante che possano ospitare le farfalle. Dice: io per esempio ho messo ruta e finocchio selvatico, di cui si nutre il bruco di macaone. Vanno bene anche ortica e cardo, di cui si cibano le larve di Vanessa, e poi lavanda, achillea, verbena e fiordaliso, che forniscono il nettare agli insetti adulti. Io sto già in piena regola perché la piantina di lavanda sul balcone ce l'ho, e quindi va bene, no? Perché dovete tenere conto che negli ultimi 20 anni, rivela la rivista scientifica Ecological Indicators, il numero di farfalle urbane è diminuito del 69% e quelle nelle aree rurali del 45%, cioè non ci sono più farfalle. La causa? Il cambiamento climatico. Fa troppo caldo e non ci sono più zone verdi. È tutto, con Si può fare ci ritroviamo dopo il GR, a più tardi. Si può fare cronache da un paese migliore. In my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body, so don't stop, stop. Under the lights when everything goes, nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do, but you dance. 8 e 17 minuti, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno e buon sabato da Carlo Gabardini. Chiedo scusa per questo filo di voce gracchiante che esce dalla mia bocca oggi, ma è così, siete, andare in montagna non fa bene alla salute. Ma noi te la invidiamo. Non fa bene alla gola, ma che è? Ma io che? Te la invidio. Vabbè, sempre questa voce, te la invidio quando è anche normale, così, no, anche guarda, come oggi. Ma come no, assolutamente, pagherei per avere la tua voce. Cari ascoltatori, siamo qua, 800 24 00 24, vi aspettiamo. Vi aspettiamo anche al 349-238-6666 se volete scriverci, naturalmente anche alla pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24, tutti i vari account Twitter che abbiamo circolando, e vogliamo stare con voi fino alle 10 di questa mattina. Abbiamo tutti i nostri Si può fare che vi aspettano. Stamani vi sorprenderemo con una notizia di cui non ha parlato nessuno, ma è una notizia molto importante che riguarda l'antiterrorismo, lotta all'ISIS e l'Italia in prima linea. Vedremo tra poco di che si tratta. E stai poi tirando sulla suspense, Si può fare, perché in effetti con quello che succede nel mondo sembra molto difficile trovare dei Si può fare. E noi ci proviamo sempre, come sapete, ogni fine settimana. E poi, insomma, ragazzi, qua non possiamo. Io ce l'hai la sigletta di Casa Vianello? Me la rimetti? Io stamattina in rassegna stampa ho introdotto così le vicende in casa PD, perché non se ne può più, è vero, vanno avanti dalla vita, sono lì, che se non fosse che ci sono di mezzo le istituzioni, il Parlamento, il governo, ci sarebbe solo da ridere. Sì, se non fosse che ci siamo di mezzo tutti noi, tutti, in qualche modo non si capisce, o ormai non si capiscono quasi più le motivazioni di questo litigio che è partito. Bravo. Da dove è partito questo litigio che sembra insanabile, e soprattutto che ci viene continuamente venduto con tutti che dicono: noi non vogliamo assolutamente scinderci, non è vero, però poi nei fatti sembrano quelle cose che succedono nelle famiglie. Esatto. No? Stamattina, parlando con Carlo, mi ha illuminato, mi ha detto: è quel litigio che tu non sai più perché inizia, ma chi ha iniziato. Vi ricordate quando poi anche da bambini, no? Ma chi è iniziato? No, chi è iniziato? Barba, che barba, che noia. Ecco, guarda. Questi sono gli italiani, però, direi. Questi sono gli italiani. Che noia, che barba, che barba, che noia. Ma giustamente, come stavi dicendo, ci sono casi in cui non ci si ricorda più. So semplicemente che sono litigato, come si dice allora, in maniera noi scorretta. Stamattina vi chiediamo: quelle litigate feroci che avete fatto con i vostri genitori, con i vostri amici, con i vostri colleghi di lavoro, che poi a un certo punto vi siete pure domandati: ma perché stiamo litigando? litigando, e magari poi la discussione è anche finita lì, perché esatto, non c'era più un motivo. Se ci raccontate quelle, siamo ancora più contenti ed è più facile che vinciate il premio, ovvero quelle dove poi uno a un certo punto si guarda in faccia e dice: senti, ma noi stiamo litigando da 17 anni, ma perché? Esatto. E in una con una birra si riappiana tutto. Invece purtroppo ce n'è anche tanti che vanno avanti, proseguono vanno senza bene, motivazione. Vanno bene tutti, potete ricamare anche un po' di fantasia se volete, certo, naturalmente, purché l'episodio sia vero, insomma, ci sia una base di verosimiglianza. Verosimiglianza. Va benissimo. 800 24 00 24, un libro in premio per voi quest'oggi alla telefonata più interessante, più divertente, ma anche più di un libro. Va in attesa di ritornare a offrire mostre, come abbiamo fatto fino ad oggi, il sabato e la domenica mattina. Adesso iniziamo. 800 24 00 24. Vai. Sono The Zen Circus con Terrorista, ed è il modo che abbiamo scelto per introdurre questa notizia. La notizia è questa: il rafforzamento della base NATO di Lago Patria nei pressi di Napoli, che diventerà una centrale operativa anti-ISIS. Qui avverrà coordinamento, leggiamo da pochi articoli di giornale apparsi, sulle informazioni nei paesi a rischio, Libia e Iraq. La novità quindi è che l'Italia assume un ruolo maggiore in questi operazioni antiterrorismo, anti-ISIS. È un tema molto delicato, capirete, e per quanto ci riguarda è un si può fare interrogativo. Ci chiediamo: è giusto che l'Italia dia un contributo anche militare maggiore alla lotta all'ISIS, che insomma è fonte di tante attentate, di tante preoccupazioni, e che sta controllando anche una parte di territorio in Siria e in Iraq? Ne parliamo con un esperto, che è Lorenzo Vidino. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Possiamo sintetizzare anche dicendo che è un consulente del governo sulle questioni di sicurezza e terrorismo, oltre che essere Director of the Program in Extremism alla George Washington University. L'ho detto in inglese perché io parlo sempre male degli anglismi, però qua bisognava dirlo per forza perché è un'università americana. Poi anche potevi dire è direttore del programma sugli estremismi? Non era la stessa cosa. Vidino, allora, che significato ha questa operazione che vede l'Italia, con questo centro particolare di Napoli, in prima linea nella lotta all'ISIS? Ma evidenzia quello che è un ruolo già importante dell'Italia nella lotta all'ISIS. Cioè, l'Italia svolge da quando è iniziata la coalizione contro ISIS, cioè dal settembre 2014, un ruolo importante. Un po' sotto traccia, se ne parla poco, però l'Italia è un paese che ha per esempio il secondo contingente più grande in Iraq, che addestra le forze dell'esercito iracheno, ha una presenza in Afghanistan, ha una presenza appunto in Iraq, nel Golfo in generale, una presenza in vari scenari, nello scenario marittimo per quanto riguarda la Libia, svolge un ruolo importante per quanto riguarda ad esempio il finanziamento del terrorismo, nel senso la prevenzione del finanziamento al terrorismo. Gestisce insieme agli Stati Uniti e all'Arabia Saudita il gruppo che si occupa di lotta al finanziamento del terrorismo. Questo è, diciamo, forse l'ultimo tassello, la creazione di questo centro nel napoletano, che ha soprattutto un ruolo di analisi, di monitoraggio per quanto riguarda i droni, soprattutto ci sono varie funzioni che svolgeranno, non tutto è stato reso pubblico, come giusto, come logico. Però andrà a svolgere un ruolo molto importante, sì, per quanto riguarda il monitoraggio con i droni, con la alta tecnologia, e quindi l'analisi di quello che succede soprattutto nella sponda sud del Mediterraneo. Il centro, diciamo, dell'analisi è soprattutto lo scenario libico, o comunque del il Nord Africa in generale. Ecco, i vari ministri hanno detto, che il ministro Pinotti in particolare, che si tratta della difesa di una, ministro della difesa, di una scelta dell'Italia, una richiesta dell'Italia di avere questo ruolo e di potenziare questa base di Napoli. Ma è davvero così secondo lei, o può essere anche in qualche modo una decisione imposta dai nostri alleati della NATO? Anche perché recentemente l'amministrazione americana Trump ha detto: o aumentate i vostri sforzi, oppure noi ci sfiliamo, insomma usciamo in qualche modo dagli impegni militari della NATO. Insomma, con Trump stanno cambiando un po' gli scenari, no? Sì, anche se chiaramente questo lo dico da qualcuno che vive negli Stati Uniti e vede un pochino le dinamiche dell'ultima settimana, non si capisce bene cosa voglia fare Trump su questa come su altre questioni, cioè se da una parte... Non lo si capisce nemmeno da qui, a dire la verità, infatti noi speravamo di avere delle risposte, almeno per vicinanza. No, buona fortuna, no. Nel senso che da una parte ci sono i proclami molto, molto aggressivi, cioè sconfiggeremo l'ISIS entro 6 mesi, entro un anno, al tempo stesso però c'è questa minaccia quasi di sfilarsi dalla NATO, di isolarsi, quindi le due cose non sono molto compatibili, quindi è difficile capire esattamente cosa succeda. Ma diciamo che nel caso specifico, alla domanda comunque... se davvero è stata una decisione dell'Italia o se può essere stata, perché lei dice l'Italia è in prima linea nella lotta all'ISIS e al terrorismo su tanti fronti, però fino ad oggi diciamo, no, forse anche l'opinione pubblica non aveva avuto tanto questa sensazione, sembrava che l'Italia fosse in qualche modo un pochino defilata, per esempio rispetto alla Siria, all'impegno militare in Siria. Non è vero, in un certo senso. L'Italia, come dicevo prima, ha un ruolo importante. Non sono forse le azioni più visibili, cioè non ci sono i boots on the ground, non c'è l'impiego più di tanto di forze di combattimento, però ha queste funzioni di supporto, e comunque anche questa attività che si andrà a creare nel Napoletano è di supporto, cioè non è di combattimento. È, ripeto, un'unità che monitorerà le situazioni soprattutto nel Nord Africa attraverso la tecnologia, attraverso i droni, e poi svolgerà un'azione di analisi che potrebbe eventualmente supportare azioni di militari vere e proprie che andrebbero compiute non esattamente da questa unità che si andrà a creare. Però comunque ecco, la decisione di creare questo precede l'inizio dell'amministrazione Trump, non è una cosa che è stata decisa la settimana scorsa. Perfetto, quindi si tratta di strategie di più ampio respiro. Perché proprio Napoli? Cioè, che importanza ha la base in particolare NATO di Napoli? Ma adesso, perché esattamente Napoli, questo non glielo so dire. Chiaramente c'è una tradizione a Napoli di presenza NATO, e geograficamente, insomma, ripeto, il cuore di queste azioni è il Nord Africa, è la Libia in particolare, quindi insomma il Sud Italia in generale è strategicamente posizionato, diciamo il centro del Mediterraneo, la vicinanza con la Libia, con la Tunisia, con l'Egitto, che sono stati i tre scenari forse più importanti nella lotta all'ISIS in Nord Africa, quello è, quindi forse o Sigonella o il Napoletano, insomma quelle sono le due basi grosse in Africa, nella zona. Poi un'altra, diciamo, curiosità, che è più anche un timore, no, che si affaccia, ed è un po' un automatismo che si fa: l'Italia con questo impegno nuovo che aggiunge, per come ci stava spiegando lei, il nostro già impegno nella lotta al terrorismo nel scenario medio orientale, si espone a un maggiore rischio di possibili ripercussioni o per quanto riguarda possibili attentati nel nostro paese, secondo lei? Chiaro che maggiore è la visibilità, maggiormente si diventa obiettivi. Forse anche questa è una delle ragioni per cui questo impegno italiano negli ultimi anni è stato abbastanza sotto traccia, e questo forse è una cosa da dire di quanto in un certo senso l'Italia sia stata brava a impegnarsi in quella che è una lotta necessaria contro l'ISIS, perché non è una questione di visibilità o no, se si è obiettivi. È chiaro che l'ISIS ha dichiarato guerra al mondo, prima di tutto quella parte del mondo islamico che non accetta la propria ideologia, e poi a praticamente ogni altro paese del mondo. Diciamo che l'impegno italiano è stato forte, ma finora abbastanza appunto sotto traccia. Ciò non vuol dire che non siamo obiettivo, come non lo sono altri paesi. Insomma, praticamente ogni paese europeo ha visto attentati pianificati, perlomeno anche paesi neutrali come la Svezia o l'Austria. quindi diciamo che non è sì, quello sappiamo che anche l'Italia no. È stato detto che per ora non è accaduto, ma c'erano comunque sul piani territorio sono italiano stati, sono stati dei piani, ahimè purtroppo. Lei poco fa accennava al fatto di queste dichiarazioni contrastanti che vengono dall'America sul quanto si avvicina alla fine dell'ISIS, no? Recentemente un comandante americano ha dato 6 mesi, ha detto in 6 mesi sconfiggeremo ISIS sia in Siria che in Iraq. Notizia che ci rassicura da un certo punto di vista, sono notizie che conferma, si può dire che l'ISIS sta riducendo ai mesi contati. Dipende cosa si intende per ISIS, dipende di quale scenario stiamo parlando. Diciamo che soprattutto per quanto riguarda l'Iraq è vero che l'ISIS è sulla difensiva, c'è questa battaglia per Mosul, che è la seconda città dell'Iraq, in mano all'ISIS ormai da più di 2 anni, che lentamente sta vedendo il governo iracheno e l'esercito iracheno prevalere. Probabilmente è prevedibile che entro qualche mese verrà liberata e la maggior parte dell'Iraq verrà essere tolto all'ISIS. Ciò non vuol dire che quelli dell'ISIS andranno a dedicarsi al giardinaggio o al bridge. È chiaro magari, che quello che rimarrà dell'ISIS si dedicherà a quello che ha fatto prima di controllare parte dell'Iraq, cioè alla guerriglia. Cioè, è molto difficile ipotizzare che i territori tolti all'ISIS verranno pacificati completamente e diventeranno una nuova Svizzera. È facile che torneranno sotto il controllo dell'Iraq, certo, e magari certo. Possiamo dire lo stesso in Siria, sotto Bashar al-Assad, però è chiaro che comunque diventeranno dei territori molto problematici. E l'ISIS comunque gruppi jihadisti che hanno la stessa ideologia dell'ISIS e magari prenderanno un altro nome, è chiaro che andranno a spostarsi in altre zone problematiche. La Libia, il Sinai, Yemen, la Somalia, quindi purtroppo zone prive di un governo vero e proprio, molto instabili, dove gruppi jihadisti possono localizzare. La Libia ci preoccupa particolarmente perché anche solo per vicinanza. Esatto, di fronte a casa nostra. Queste infiltrazioni dell'ISIS in Libia quanto possono preoccuparci? Quanto possono molto. Hanno già preso molto? Molto, la paura è esattamente quella che il momento in cui il nuovo fronte dell'ISIS possa essere la Libia in questo momento. Esattamente, cioè il momento in cui, ma questo è un movimento che si è visto da un anno più o meno a questa parte, cioè l'ISIS perdendo territorio in Siria e in Iraq sposta i propri operativi e in un certo senso anche il proprio baricentro in Nord Africa, in Libia in particolare, paese che ormai da 6 anni è in una guerra civile con delle zone in mano a milizie dove manca un governo centrale vero e sì. proprio, o meglio ce ne sono due che in realtà controllano poco, e in alcune zone come ad esempio a Sirte l'ISIS e altri gruppi jihadisti spadroneggiano, insomma, con vicende. Si capisce meglio, però. Forse si capisce meglio anche la notizia da cui siamo partiti, con questo esatto. quadro qua. Napoli. Perché Napoli? Ma le volevo chiedere una cosa. Prima, giustamente, insomma, stava dicendo che sono difficili da interpretare certe affermazioni di Trump. Una cosa che abbiamo capito molto bene è che lui ha detto che bisogna fermare Italia la difesa e bisogna aumentare gradualmente la spesa per la difesa. E andare verso l'obiettivo del 2%, e quindi appunto le chiedevamo se questa questione di Napoli andasse in quella direzione, ma essendo una decisione precedente probabilmente no. Io quello che mi chiedo è, ma è un modo di contrattare questo di Trump per fare in modo che tutti i paesi tirino fuori più soldi ed è semplicemente anche un po' per provocazione, o realmente cambierà qualche cosa nei confronti della NATO, ovvero gli Stati Uniti si tireranno un po' indietro? Ho più difficoltà a rispondere, perché per dire, sapere quello che farà l'amministrazione Trump è veramente molto molto difficile. Penso che ogni persona che si incontra a Washington si ponga queste domande in questo momento, perché siamo nelle fasi iniziali dell'amministrazione Trump e però lui va veloce, quindi diciamo che è stato bravo come operazione di marketing, giustamente è stato, possiamo dire che è stato bravo come operazione, vogliamo chiamarla così, magari diminuendola un po', di marketing, a creare suspense su quello che farà l'amministrazione Trump, perché tutti adesso aspettano di vedere che cosa succederà. Esattamente, che ci sia una pressione che venga da anni sì. dall'America, questo ben prima di Trump, affinché i vari paesi membri della NATO investano di più, investano una percentuale maggiore del proprio prodotto lordo nazionale nel rafforzare i propri eserciti. Questo è vero, questo precede Trump, precede anche Obama, insomma la differenza, se ho capito bene, la differenza è che di solito si diceva sempre dovete investire anche voi, questa volta invece si dice se non investite anche voi noi ci tiriamo indietro. Sì, sostanzialmente chiaramente lo stile è diverso. Cambia lo stile, esatto. Per il momento cambia lo stile. Finché cambia lo stile, volevo capire la sostanza. A vedere. Intanto grazie Lorenzo Vidino per essere stato con noi. Grazie mille. Buona giornata, grazie averci aiutato a capire, in qualche modo anche a decriptare questa notizia, l'allargamento della base NATO a Napoli in chiave anti-ISIS, notizia appunto confermata di questa settimana. Noi siamo partiti da qua per capire se è un si può fare, cari ascoltatori, che vi trova d'accordo, o anche semplicemente se avete qualche argomentazione da offrire su questa questione. 800 24 00 24. C'è un ascoltatore che al 342 38 6666 scrive: no, ma come, copiate il siparietto di Radio DJ con Casa Linetti usando la sigla dei Vianello, poi chiedete fantasia agli ascoltatori. Caro ascoltatore, io non so di cosa stai parlando. Questo siparietto di Casa Linetti su Radio DJ non lo conosco. Tu lo conoscevi? No. Posso dirti una cosa, che abbiamo usato Casa Vianello milioni di volte, altre volte su milioni di altre vicende. Per esempio, quando c'era il governo Monti, io l'avevo paragonato a Raimondo Vianello, e quindi ogni volta che c'era una notizia in casa Monti parlavo di Casa Vianello, alcuni anni fa. Però insomma, non so se ti può bastare come risposta. Poi Casa Vianello è un evergreen, insomma, sempre, diciamo che... la usiamo tutti per tutto. E poi vi aspettiamo con i vostri litigi eccellenti, così come sta accadendo in casa PD. Esatto, litigi dei quali non si ricordano, non si riconoscono più le motivazioni di partenza, ma intanto si litiga con mogli, zie, suocere, colleghi di lavoro, tutto quello che volete. 800 24 00 24 vi aspettiamo. Foundation, a special bond of creation. Bus fare. When the pops disappear, in a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop, no time, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love, nobody matters like you. Questa è Si può fare, come tutti i sabati e le domeniche mattina su Radio 24, e questa che abbiamo appena ascoltato è Rockabye di Clean Bandit. È una canzone che ci è stata suggerita da Giorgia da Salerno. Noi vi ricordiamo che siamo sempre in cerca di dei si può fare in musica, quindi se siete dei cantanti, dei musicisti, dei compositori o anche semplicemente degli ascoltatori e vi imbattete in una canzone che secondo voi racchiude bene il concetto di si può fare, beh, vi chiediamo di segnalarcela, di mandarcela, così noi la mettiamo sui nostri account social e la faremo anche sentire in onda. Potete inviarci i vostri si può fare in musica alla nostra mail si può fare @radio24.it, oppure sul nostro profilo Facebook si può fare /radio24, il nostro Twitter @si può fare24, o anche sui nostri account personali. Il mio è @CarloGabardini e il mio @AleMaurizzi. Allora, ascoltatori, al 3492386666, per esempio, c'è un ascoltatore che scrive: lo stile è diverso, virgolettato, radical chic vomitevole. Guarda che quando diciamo lo stile di Trump è diverso, non stiamo parlando del fatto che abbia o non abbia un certo stile, stiamo dicendo proprio tecnicamente lo stile nel senso la forma delle sue comunicazioni. Cioè si è detto che Trump in qualche modo ha minacciato gli alleati della NATO di uscire dalla NATO se gli alleati non aumentano i loro investimenti. Comunque che stile? Il nostro esperto Vidino diceva: questo stiamo allo stile delle dichiarazioni, non è che la sostanza per ora sia cambiata, quindi però è cambiato il modo in cui vengono fatte queste cose, un modo più estremo, diciamo così, quindi stile in quel senso. Ma la forma a volte è anche contenuto, vogliamo ricordare. Poi un altro ascoltatore che dice per le vicende del PD è meglio la sigla Beautiful, sostiene questo Antonio. condivido ma che se di Beautiful condivido. non c'è moltissimo di Beautiful. Beh, c'è di Beautiful, sì, una questione, certo, degli intrighi di tutti, sì, contro tutti, di gente che si toglie la maschera all'improvviso e dice io sono tuo padre, e dici ma come, in che senso, perché lui è il padre di quell'altro del PD, cioè vuoi dire che Bersani è il padre di Speranza? Ma no, o Renzi? Beh, insomma, c'è anche D'Alema, ci sono tutti in questo momento. Pier Paolo da Firenze, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Bene, grazie Pierpaolo. Allora, dunque, sì, a parte la notizia mi ha lasciato molto contento e felice, ogni tanto l'Italia si dà da fare, e che giustamente ha trovato un sistema per combattere l'ISIS in maniera bella, compiaciuta, cioè senza mettersi nel mezzo ma nascondendosi, però facendo un buon lavoro. Però non ci dobbiamo dimenticare che in Siria, che in bellissima sta schiacciata, che in Siria, in Iraq e anche in Iran ci sono i Peshmerga. Sì, cioè? Che sono quelli, i Peshmerga, i combattenti curdi, che non solo difendono la loro terra, ma difendono anche quelli che non sono, diciamo così, fra virgolette, musulmani e cristiani. Volevo ricordare, sì, la scomparsa un paio di settimane fa del generale comandante. Per Paolo, abbiamo un po' di casino di sottofondo. Che cosa, sì, sta succedendo? Sono a lavorare in questo momento, ecco. Mi sto telefonando. Allora, dicevo, il generale comandante, sì, un combattente che lo chiamavano Daesh Hunt, che era un grande combattente, morto di infarto. Sì. No, vabbè, ma dei curdi, dei Peshmerga si è parlato, cioè si è detto tante volte, insomma, del loro ruolo. Questo mi pare di sì. No, ma volevo ricordarlo. Volevi ricordarlo. Va bene, hai fatto bene Pierpaolo, grazie mille per averci chiamato. Del resto questo è un argomento complesso, quello a cui siamo partiti stamattina, no? La lotta all'ISIS in Siria e in Iraq, chi ha delle notizie, chi sa realmente cosa sta accadendo, è molto difficile, si possono leggere delle analisi. Noi siamo partiti da una notizia che riguarda l'Italia, l'allargamento della base NATO di Napoli. Maurizio, esatto, da Parma, benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno. Ciao, vai. Io volevo parlare di una cosa che mi è successa alcune settimane fa. E noi ci troviamo abitualmente un gruppo di amici in casa di qualcuno a mangiare alla sera, così. Ah, pensavo a litigare, pensavo ci troviamo a casa, esatto, di amici a litigare. Esatto. Ecco. Sì. E parliamo di politica. Sì. No? Aia. Non bisognerebbe parlare di politica, perché sono due cose molto in contrasto. E in effetti poi dopo la cosa, parlando di PD, abbiamo praticamente alzato un po' la voce, perché questi miei quattro coppie di amici, loro sono della sinistra, proprio sinistra. Sì. E mi dicevano che loro assolutamente, Renzi è un soggetto anomalo, no? Cioè, sì. Ma che cos'è la sinistra, proprio sinistra? Questo è interessante, direi, per tutto il paese. La sinistra, che praticamente loro mettono in... Allora, se tu parli male, come ho fatto io, del sindacato, per poco non vanno a casa i miei amici. Cioè si alzano proprio da tavola e se ne vanno. Ma è bella questa cosa, Maurizio. Purtroppo non sentiamo bene l'audio, evidentemente sei in macchina, non so se stai usando il viva voce, toglilo e eventualmente proviamo a chiudere in bellezza. Però è bella questa cosa, immaginati Carlo a tavola, quattro coppie di amici, parte una serata tranquilla, poi si scaldano gli animi proprio come nella direzione PD. Cioè voi praticamente fate il caminetto dentro casa voi, ti ricordi il caminetto, la riunione dei vertici del PD, eccetera. La riproducete un po' a tavola tra amici, Maurizio. E loro sono da sempre della sinistra, e quelli della sinistra, per loro, la Camusso, sì, Bertani, non si toccano. Sono intoccabili. Chiunque solo pronunci queste parole in senso, diciamo, facciamo una pulizia, no? Guardiamo il futuro, cioè, è una bestemmia. Quindi, vabbè. Insomma, non c'è neanche la possibilità di dialogo. E quindi io vedo... Ma Maurizio, però al di là della questione dell'analisi politica, questa litigata che avete fatto, che ne è venuta fuori, ha trasceso, cioè vi siete mandati a quel paese, qualcuno se n'è andato sbattendo la porta, oppure alla fine poi tutti amici? Assolutamente sì, perché io vedo in Renzi No, non ci sente, basta, Maurizio è ufficiale che non ci sente più, quindi lo salutiamo, grazie per essere stato, perché stava continuando a parlare, chissà, stava entrando forse in un tunnel, in una qualche... ci stava spiegando la litigata. Esatto, ci stava spiegando la litigata, però cominciava a diventare un po' complicata, peggio di quella in casa PD. 800 24 00 24, i vostri litigi, anche quelli nei quali a un certo punto poi... non si ricorda più il motivo della litigata, il motivo di partenza. Sono bellissime queste storie da raccontare, vi aspettiamo tra poco dopo il traffico. È sempre bello sentire questa Another Break in the Wall, questo pezzo di storia della musica. Per noi che siamo anziani, volevi Floyd. Dire? Per noi che siamo anziani, perché è più anziano di noi e forse anche per chi è più giovane, ogni tanto una rispolverata di questi classici. Perché la notizia di cui andiamo a parlare ha a che fare con l'educazione, in particolare dei bambini. Stamattina in rassegna stampa ho letto, siamo un popolo fantasioso, ho letto di questo imprenditore, anche lui convinto che i buoni comportamenti vadano incentivati, che darà 1000 euro ai suoi dipendenti che smettono di fumare, un imprenditore nel Bresciano. Questa volta siamo di fronte al titolare di un ristorante, di una enoteca a Padova, che fa sconti alle famiglie che portano con sé bambini ben educati. Ecco noi a lui, il titolare dell'enoteca Antonio Ferrari, storie di cibo e di vino di Padova. Buongiorno Antonio. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Allora, questa, stavo per dire questa ordinanza, mi stavo un po' allargando, questa idea, questo sconto per le famiglie di bambini educati, è già in vigore? È operativa, è un'idea, non è una promo, non è nessuna promozione. Sì. Tanto era lo sconforto a relazionarsi con non tanto bambini educati, ma genitori maleducati. Ecco. Tanto era lo sconforto di aver... tanti genitori maleducati. Una volta abbiamo trovato un tavolo esemplare, piacevole, l'immagine della famiglia serena fuori casa, non ho potuto trattenermi, ho fatto questa cosa secondo me. Gli ha fatto subito lo sconto, così per iniziare. Ha fatto lo sconto a posteriori. Ah, ma è nata sul campo, è quindi sul campo. È andata a braccio. Io ho gestito una domenica molto impegnativa, come sempre sono le domeniche, perché la domenica è domenica famiglia anche fuori casa, c'è il pranzo, quindi famiglie che intervengono, che vengono a pranzo. Con i bimbi? Esatto, pronti a supportare tutto lo staff e a sopportare, non tanto ripeto il bambino, perché il bambino fa il bambino, ma a sopportare un genitore che lascia che il bambino faccia qualsiasi cosa. Quindi il buon comportamento, abbiamo premiato il buon comportamento, non tanto l'educazione. L'educazione non è che me ne freghi tanto, l'educazione del bambino dentro al locale o fuori casa, l'educazione è una cosa troppo ampia. Abbiamo premiato il buon comportamento nel posto del bambino. Grazie. Ma poi cosa fanno? I genitori e i figli fanno a metà dello sconto, ci mettono d'accordo e dicono comportati bene che ci tolgono 13 euro. Hanno deciso cosa fare, hanno lasciato la mancia doppia dello sconto che abbiamo fatto. Beh, quindi educatissimi, direi. È win-win, ormai... come si suol dire, nel senso che voi fate lo sconto, loro hanno lasciato il doppio di mancia. È una notizia perfetta. Ma la cosa che le volevo chiedere era: chi decide se dei bambini sono educati o meno? C'è un notaio? Allora, io decido nel nostro locale. Ho chiamato anche con il mio nome. Chi entra può anche fare questo piccolo gioco di ben comportarsi e vedrà che lo sconto arriva. Comunque il giudizio è arbitrario ed è stato mio e sarà sempre mio. Ah, ecco, è a giudizio insindacabile del proprietario. Assolutamente sì. Il problema è stato il problema che tanti si sono rivoltati contro a questa cosa. Parlare di educazione sembrava che fosse un male, che fosse una parola tabù. Cioè, come se lei si permettesse di dare un giudizio magari anche su quelle famiglie. Volevano eliminare la parola di educazione. Sembrava che fosse... Ma quindi è capitato anche che qualcuno si girasse i tacchi e se ne andasse? No, questo no. In questa settimana è capitato pochissimi, ma molto pesanti. Ma qual è lo sconto maggiore che è riuscito ad applicare ad una famiglia super ultra ben educata? Se uno ha tre bambini tutti ben educati, lo sconto aumenta? Il no. 5% sconto, che sia tanto o poco il conto. Non ah, ok, che tu abbia, certo, speso 20, 30 no, o 40. Però, tu no, però stavamo entrando in un esempio giusto, perché se uno ha, cioè se ci sono 4 bambini e ce n'è 3 Ducati e uno no, tu, Carlo, in famiglia, che cosa succede a quel punto? Tanti, no? Non facciamo nessuno sconto. Ah, basta uno che pagano tutti? Inficia tutto, esatto. Il comportamento del genitore, non il bambino. È inutile andare avanti con il focus sul bambino. È il genitore che non mi può dire manda qua mio figlio. No, sono d'accordissimo che sia il genitore, tanto che le volevo anche chiedere, giustamente prima, sì, Alessio ricordava, io ho un sacco di fratelli e sorelle, quindi uno era la domanda sui gruppi familiari, ma l'altra è veramente che forse anche i clienti adulti educati dovrebbero essere premiati, perché molte volte appunto non è colpa dei bambini, quindi forse bisognerebbe prevedere uno sconto in generale per gli educati? Cioè vuoi lo sconto anche per te, Carlo? Per esempio, ma... Beh, allora, lo sconto per gli educati, viva Dio, questo no, con gli educati bevo volentieri un calice di vino assieme, posso offrire anche i calici di vino, tante volte ciò che offriamo al banco o ciò che offriamo a posteriori dopo di un pranzo o di una cena forse va anche oltre lo sconto, quindi nulla di formale, tutto di piacere. Il problema è quando il genitore lassivo lascia lo stato bravo il figlio, secondo loro questa è educazione, che il bambino si comporti a braccio, che vada, che faccia, che si esprima. L'essere selvaggi non pensa. Ma sarà capitato che il genitore non fosse convinto della sua diagnosi e sostenga, ma mi sembra che mio figlio è stato educatissimo, e lei dice no, guardi, famiglie che vanno con l'avvocato, esatto, in enoteca. È capitato il confronto astioso e aspro con il genitore che non vuole sentire ragioni, suo figlio è educato e può fare quello che vuole, però lei ha gettato il sasso nello stagno, ha gettato il seme della buona educazione anche nelle enoteche e nei ristoranti. Antonio Ferrari, grazie per essere stato noi da Padova. Buona giornata. Noi ci fermiamo. 800 24 0024. Vi aspettiamo. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno ragazzi. Io ho litigato per colpa dei proprietari di cani che non capiscono che il loro è un cane e non è un bambino. Anzi, se mio figlio prova a magari una volta a piangere di più, è certo che mi sento la lamentela il giorno dopo da parte del custode. Però il loro cane può abbaiare per ore. Perché il cagnolino? E questo buonismo sui cani sta diventando un problema dopo la legge Brambilla, perché chiunque può tenere un cane, ma nessuno è stato addestrato a tenere un cane. E nei condomini ci sono dei litigi mostruosi. Vabbè, questo è un ascoltatore che lo si chiami Mauro, che ci ha registrato questo messaggio su WhatsApp, e lui litigava, avete sentito, per la questione dei cani nel suo condominio. Con i proprietari di cani. E quindi siamo partiti da qui, dai litigi. Per la verità vi abbiamo chiesto i vostri litigi epocali, quei litigi incredibili, lunghi, durano anni. Poi a un certo punto, un po' come in casa PD, ci si domanda, ma perché stiamo litigando? C'è un motivo per cui stiamo litigando. Qual era il motivo originario per cui stiamo litigando da 20, 25, 30, 35 anni? Comunque forse questa dei cani dovremmo consigliarla. Chiamateci 800 24 00 24, perché in libro c'è in palio un libro oggi per la telefonata più divertente. Ed abbiamo avuto Bar Sport di Stefano Benni, che ci sembrava giusto. Sport, esatto. Esattamente. Abbiamo già avuto un ascoltatore che ha chiamato raccontando le scene con i suoi amici, 4 coppie di amici che litigano proprio per questioni di politica e che a un certo punto qualcuno rischia di alzarsene andandosene, sbattendo la porta. E lui è la minoranza PD, mi sembra di aver capito, nei loro litigi. Dicevo che questo dei cani forse dovremmo segnalarlo anche ad Antonio Ferrari, che abbiamo sentito prima, proprietario gestore di un'enoteca a Padova, che fa lo sconto per i bimbi ben educati. Forse bisognerebbe fare uno sconto anche se uno va a mangiare con il cane ben educato. C'è un ascoltatore che scrive: volevo segnalarvi un ristorante a Teramo dove se si lasciano i cellulari spenti fanno lo sconto, aspetta che mi si apre il WhatsApp, del 15%, ci scrive Carlo. Ne abbiamo parlato, non di questo caso forse specifico, ma di altri casi in cui, anzi era anche molto divertente, era che tu dovevi consegnare il telefonino, metterlo in una scatola e poi colui che per emergenza o per qualunque motivo richiedeva il proprio telefonino prima della fine della cena pagava il conto per tutti. Alessandro da Frosinone, buongiorno, benvenuto. Ciao, buongiorno a ciao, tutti. Ciao. Buongiorno. Prego. Dunque, la mia esperienza è un'esperienza un po' triste, perché parlo di una malattia di un nostro carissimo amico, nostro del gruppo, diciamo, sì, che era il leader del gruppo, il più bello, il più capace sportivamente parlando, quello che le donne per lui erano tutte per lui. E improvvisamente era sparito un periodo, nessuno ne aveva notizie. Io che avevo un rapporto privilegiato, perché avevo combattuto per essere un suo amico, perché era un ragazzo di colore e 40 anni fa non era facile far capire alle famiglie alcune cose. E quindi? E quando l'ho ritrovato, praticamente l'ho trovato che aveva una grossa malattia di cui non si poteva parlare, perché c'era attinenza anche sulla privacy, non ne parlava con la moglie, non ne parlava con gli amici. Mm-hmm. E io per condividere questa cosa, per cercare di aiutarlo, ho dovuto fare una selezione fra gli amici, fra chi poteva essere informato, fra chi non potesse essere informato. Ma c'è stata una litigata con qualcuno, noi sì, questo vi chiediamo stamattina. È proprio questo che volevo dire. Sì. C'erano altri amici che ritenevano, e qui il parallelo con la politica, no? I filosofi, sì, del gruppo, quelli che pensavano di avere un rapporto speciale, che pensavano quindi di aver diritto ad essere informati, che mi hanno bannato dal gruppo perché non li ho informati di una cosa che non li potevo informare. Quindi a volte, cioè loro sapevano, hanno saputo che tu sapevi e non avendo, esatto, detto nulla se la sono presa con te. Ho coinvolto l'amico odontoiatra perché poteva essere stato a contatto con il sangue, sì, ho coinvolto l'amico delle merende perché poteva... Ma queste litigate poi sono andate avanti, si sono risolte, vi sì, siete spiegati? No, non si sono risolte, ma io ne faccio volentieri a meno di persone che giudicano senza sapere. Quindi però, qui c'è stata la scissione di questi... Esatto, ma nella vita ci può essere la scissione. Certo, sì, che se mi fossero serviti i loro voti ci avrei pensato due volte probabilmente. Ecco, era questo che volevo dire. Alessandro, noi ti ringraziamo, una vicenda bella anche che ci hai raccontato, laterale rispetto a quello che dicevamo noi, un po' come quella dei cani, che molto più grave questa, però che tocca tangenzialmente quello di cui parliamo stamattina. Però è bello fare questa seduta di autoanalisi collettiva, perché alla fine i litigi sono un po' anche questo. C'è un motivo per cui si litiga, c'è sicuramente, c'è anche in casa PD, però poi c'è anche tanto, come si può dire, tanto psicologia, tanto psicologismo, tanto arrovellarsi su cose, no? Su cose che si possono anche superare, diversamente, certo, come nel caso che ci hai raccontato tu. Quindi stamattina seduta di autoanalisi sui litigi eccellenti, 800 24 00 24, o quei litigi al termine dei quali invece siete tornati amici come prima, perché vi siete resi conto che litigi ed ex litigi non si litigava litigi più sciolti, quasi per nessuna ragione. Andrea da Verona, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Ma niente, io volevo riagganciarmi a quello che diceva il ristoratore prima. Sì. E perché è vero, quando si va in giro spesso ci si incappa in questi bambini che fanno quel che vogliono. Secondo me è anche un po', non nasce dalla maleducazione sicuramente, ma anche dall'abitudine della grande distribuzione, soprattutto senza far nomi, eccellenti, che ormai ha fatto queste aree bimbi dove i genitori possono lasciare i bambini e spensierarsi della loro educazione. Dove c'è qualcuno, insomma, che ci pensa. Sì, però spensierarsi per un paio d'ore non è esattamente abbandonare dei bambini. Forse le aree gioco hanno anche una loro utilità, o sì, no? Sì, sicuramente hanno un'utilità. Perché uno dice vado fuori due ore e poi così me la godo. Però questo ha fatto sì che secondo me in generale si pensa che dappertutto si possa fargli fare quel che vogliono. Certo, ma, ecco, così un po', così. Ma le volevo chiedere una cosa, non c'è anche a volte un eccesso di attenzione da parte degli adulti? Perché insomma siamo stati tutti bambini, il fatto che un bambino corra in un ristorante non mi sembra la cosa più dannosa del mondo. Ovvio che se uno fa il cameriere ha sempre un bambino che gli corre in mezzo alle gambe, questo può essere pericoloso e va bene, però non ne farei una colpa e non stigmatizzerei dei genitori perché lasciano i propri bambini a volte correre nei ristoranti, o sbaglio? Sì, sicuramente uno non è una cosa più brutta del mondo avere dei bambini che ti corrono intorno, Però se uno non ne ha voglia o vuole stare con la fidanzata un'oretta tranquillo in ristorante e ha questi bambini che gli salta sulla testa, perché io ho una bambina di 9 anni, vado spesso in giro con dei gruppi di bambini e per tenerli tranquilli alcuni è veramente, veramente difficile. Cioè l'adulto ormai a tanti bambini è una figura che non gli interessa più, tra virgolette, no? Io mi ricordo quando ero piccolo, il mio vicino di ma casa. Ma ci sarebbe semmai da domandarsi, Andrea, che quando eri piccolo, quando eravamo piccoli noi, che di bambini ce n'erano di più in giro perché si facevano più figli, come diavolo facevamo a sopportare tutti questi schiamati? O eravamo tutti molto più educati, o eravamo più pazienti, qualche non lo sberlone so. In più volava. Qualche forse. Sberlone in più, sì, che non ha mai fatto male a nessuno. Che sberlotto. Sì, stavo dicendo, il mio vicino di casa, a me è capitato una volta che. Mi ha dato uno scappellotto. Beh, il vicino di casa. Sì. Il vicino di casa, perché ero giù in cortile. Ma devono farlo i genitori, mica il vicino di casa. No, ma io lui sì. Era un personaggio sicuramente particolare. Però non ci ho neanche pensato, da dire, oddio, chissà cosa fa. Adesso chiamo stavo il telefono azzurro. Casino, era una cosa normale. Certo. Ero un terribile io da bambino, non è che voglio dire che ero un santo, anzi. Io sapevo di essermelo meritato. È vero, oggi gli sberlotti, Andrea, non li dà più nessuno. Il risultato è che capita spesso, può capitare, capito. Che ci siano bambini senza limiti che fanno fanno casino ad libitum. Grazie, Andrea. Buona giornata. Però, se vuoi restare, sempre in macchina, se vuoi rimanere in linea, anzi, correggo, perché tra poco facciamo Crowd Me Up. Vi proponiamo due progetti che cercano il finanziamento al basso, il nostro sostegno. E chiediamo agli ascoltatori di fare da giurati, quindi gli ascoltatori che hanno già chiamato possono rimanere in linea per giocare con noi tra poco con Crowd Me Up. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding in collaborazione con Apple. E allora, come già detto, è il momento di presentarvi due progetti che anche oggi scelti dalla piattaforma Apple, la piattaforma di crowdfunding. Si tratta di un progetto imprenditoriale, un progetto di riqualificazione urbana che mettiamo, cari ascoltatori, sotto la lente di ingrandimento, alla vostra attenzione, e vi chiediamo, abbiamo degli ascoltatori in linea che faranno i giurati, come sempre daranno il loro voto per un progetto o per l'altro, aiutandoci così a conoscerli meglio. Alessandro da Frosinone, ben ritrovato. Salve, buongiorno, grazie di avermi fatto partecipare. Ci mancherebbe. Il primo giurato, e poi abbiamo Pierpaolo da Firenze, buongiorno. Ari buongiorno. Ari buongiorno anche a te Pierpaolo, e poi altri ascoltatori, se volete siete ancora in tempo, però intanto la nostra giuria popolare è composta da voi due. Cominciamo a presentare i due progetti, vai. Allora, il primo progetto che vi presentiamo è un caso davvero straordinario questa volta, perché intanto si chiama Corso di Verniciatura per Hobbisti Base ed Evoluti. E fin qua uno dice, ma di che stanno parlando? Parte è un bene. Videocorso tenuto da un falegname youtuber. La cosa incredibile di questo progetto è che è nato per raccimolare 3.000 euro e oggi, dopo soli 25 giorni dalla scadenza, ne ha già raccolti 11.255. Chissà se Stefano Heritier, l'ideatore di questa campagna, ha capito le ragioni di questo successo. Ciao Stefano, buongiorno. Ciao buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. Ho sbagliato a dire il cognome? No, Heritier, giusto. Perfetta pronuncia alla francese. Stefano, ti diamo un minuto anche di tempo. Anche con la remoscia, esatto. Quindi. O poco più, come sempre, per raccontare come e perché possiamo sostenere il tuo progetto. Va bene, allora io sono falegname, poi da circa un anno e mezzo ho iniziato a fare video su YouTube, da lì hanno iniziato a chiedermi di fare video sulla verniciatura, quindi ho pensato di creare un vero e proprio corso, quindi una collana di video, e per questo dopo aver raggiunto un certo numero di seguaci sul mio canale ho pensato che potevano sostenermi loro stessi, quindi ho lanciato il crowdfunding e questo videocorso sarà suddiviso in 15 video, tratterò tutto dal materiale che viene verniciato, quindi il supporto, il legno, massello, che sia un semilavorato, la levigatura, come si leviga, come si protegge il legno per esterno, per interno, come si danno effetti particolari, che può essere poro aperto, l'effetto stracciato o il decapato, e fino a raggiungere anche finiture particolari che possono essere le poliuretaniche, quindi per i piani da cucina, per i tavoli, per le sedie. Aia, è che è stato il gong, però insomma diciamo che hai spiegato, eri quasi arrivato alla fine della tua spiegazione, Stefano. Però tornando un po' alla domanda di prima, no? Qual è il segreto del tuo successo? Cioè, ti sei domandato perché questi video, questi tutorial sulla verniciatura del legno stanno riscuotendo questo successo? E dunque, a parte, era da molto che me li chiedevano. Io ormai ho 11.000, più di 11.000 seguaci sul canale YouTube di follower. Beh, noi siamo strabiliati perché appunto tu dici era da molto tempo che me lo chiedevano, chiedeva. Cioè sì, c'era bisogno dei video sulla verniciatura. Esatto, esatto. Infatti io ho iniziato a parlare del crowdfunding da più o meno novembre, i primi di novembre. Sì. Ho iniziato a tastare il terreno, diciamo, cosa ne pensavano i miei follower. Ho diciamo stilato la lista dei video, mi hanno corretto un po', perché all'inizio dicevo li facciamo, li rendiamo solo privati, quindi chi partecipa li vedrà solo lui, poi mi hanno detto no, è meglio che ma quanto durano? Privati. Quanto durano questi video? Beh, io cerco di non superare i 10 massimo 15 minuti, altrimenti diventano noiosi. Sono già tanti. Sono un potenziale diciamo pubblico di questi video perché mi interessa moltissimo la verniciatura del legno. Sì. Ah, vedi, io non ne io so veramente casa mia niente. Faccio, c'ho tutta una falegnameria sul terrazzo, faccio dei casini. No, sono molto curioso. Mia, ma è solo per il legno? Come? È solo verniciatura di legno? Farò qualcosa anche per il metallo, perché io lavoro anche un po' il metallo. È la seconda stagione. Questa è la seconda stagione. Questo è lo spin-off. Fermiamoci qua per il momento. Stefano, grazie. Adesso chiedo agli ascoltatori Alessandro e Pierpaolo di rimanere concentrati perché dobbiamo parlare anche del secondo progetto, che si chiama Innesto Creativo. Questa volta è una campagna nata con l'obiettivo di trasformare il giardino Michelucci alle porte di Firenze da luogo privato a uno spazio pubblico di arte, cultura e condivisione per tutta la città. È un progetto per riqualificare il giardino e restituirlo al territorio. Per realizzarlo servono 20.000 euro. Ce ne parla Costanza Zaino della Fondazione Michelucci. Eccola qua, buongiorno Costanza. Buongiorno a tutti, grazie mille dell'invito. Noi siamo... È lanciata, vai, parti, un minuto. ...del fatto che i 20.000 euro di cui avevamo bisogno per realizzarlo, siamo quasi già a 22.000 con 200 sostenitori, che appunto per noi è veramente un dato importantissimo questo, proprio perché... ci rivolgiamo alla comunità e alle associazioni del territorio che con noi hanno collaborato per costruire e dare il senso all'apertura di questo bellissimo spazio, quindi non solo poter riaprire alla comunità uno spazio e trasformarlo da luogo privato, come dicevate, a luogo pubblico, ma anche quello di arricchirlo con attività di promozione culturale e artistica. Un dato ovviamente importante per i sostenitori è il poter scegliere delle ricompense che sono strutturate proprio con queste associazioni del territorio attraverso Dang. Costanza, almeno la frase finiscila pure. Finisci almeno la frase. Attraverso appunto la loro adesione nel costituire spettacoli teatrali, concerti, workshop di pittura e molto altro all'interno di questo Perfetto. Bellissimo spazio. Allora, abbiamo speso parole per il corso di YouTuber sulla verniciatura del legno, però spendiamo sicuramente parole anche da parte nostra positive, certo, per la riqualificazione di uno spazio urbano come un giardino. E una cosa di cui parliamo sempre, ci piace molto sicuramente. Ci chiedevamo come mai avete deciso di ricorrere al crowdfunding, ovvero siccome ci chiediamo se regione, comune non vi aiutano loro a riqualificare questo giardino, non vi danno un euro. Hanno contribuito, questo è un grande piacere, a titolo personale. Purtroppo il discorso legato allo spazio pubblico è un tema particolare, perché sappiamo che ormai le casse del comune, della regione non ce la fanno più. Scusami, a titolo personale vuol dire bravissimi, andate avanti ma non ci mettiamo un euro? No, a titolo personale significa che si sono autotassati per poter dare un loro contributo e credere anche concretamente fin da subito a questo progetto. Sappiamo che i comuni hanno limiti di spesa, c'è il patto di stabilità interno, questo certo. In tanti casi sì, poi è un grosso problema, è un grosso problema, anche se nasce per motivazioni che sappiamo. Costanza, sì. Quindi speriamo che questo sia anche l'avvio di un progetto più ampio. Anche le ricompense, che ricompense avete pensato per chi vi sostiene? Allora, da un piccolo contributo di 10 euro si potrà partecipare alla festa di inaugurazione del giardino una volta. Un invito a una festa, molto bello. Esattamente. A 30 euro abbiamo lo spettacolo teatrale, il concerto di musica classica. Vabbè, con molta fantasia ed eventi nel giardino Michelucci. Grazie Costanza, resta grazie naturalmente in collegamento grazie. Perché adesso è il momento di sentire i nostri giurati. Cominciamo con Alessandro da Frosinone. Quale dei due progetti ti ha convinto di più, Alessandro? Allora, è veramente particolare. Il secondo è particolare perché è un interesse pubblico, quello di riqualificazione di un'area dove il pubblico interviene in modo privato, è un controsenso, mi sembra. È un po' sì, è vero. Sì, lo rende sì. particolare. Viceversa, io voto assolutamente per Stefano, perché un interesse privato è l'opposto. Un bricolage può diventare, per me che lavoro nel pubblico e lavoro nel welfare, nelle politiche attive, dell'occupazione, può diventare una via verso un nuovo apprendistato, perché questi ragazzi potrebbero imparare un lavoro partendo dal privato, quindi si torna nel pubblico. Quindi Stefano, Alessandro, hai detto la parola pubblico e privato almeno 18 volte, però è interessante, hai tracciato quasi una teoria tra i due casi, quindi insomma, alla fine il tuo voto va per Stefano tutta la vita. Perfetto, quindi per corso di verniciatura per hobbisti. Allora Pierpaolo da Firenze invece. Sono tutto orecchi. Eccolo qua. Dunque, ammirevole Stefano per questo grande sua prova su YouTuber, però sì. Purtroppo essendo di Firenze essendo di Firenze, poi in aperta polemica col comune di Firenze, quindi quando ho sentito il comune lo ha dato uno e spende per altre cose ad minchiam, ti sei è montata proprio la panna, anche perché è montata la panna, va bene per Paolo, quindi il tuo voto sì. Dov'è il giardino Michelucci? Io purtroppo Costanza Zaino sì? Dov'è il giardino Michelucci? Ci chiedono le coordinate. A Fiesole. Nel comune di Fiesole siete. Esattamente. In un contesto meraviglioso. È bellissimo lassù sulle colline. Sì, la vista davvero. È completamente. Allora, un momento, perché se cominciamo qua a parlare tutti insieme c'è un casotto. Siamo a pareggio, questa volta siamo a un pareggio, avevamo un numero di giurati pari, quindi era possibile che ciò accadesse, quindi complimenti a tutti e due i progetti, naturalmente a Stefano Heritier per il corso di verniciatura per hobbisti, ma anche a Costanza Zaino, innesto creativo per questo giardino Michelucci a Fiesole, alle porte di Firenze. Complimenti a tutti e due, trovate tutte le notizie sulla piattaforma di Eppela, nella parte con la partnership con Si Può Fare, ma anche sul sito di Radio 24, alla pagina di Si Può Fare e su Crowd Me Up, che è il nome di questa rubrica che torna sabato prossimo. Noi andiamo avanti, 800 24 00 24, cari ascoltatori, anche per sentire nuove telefonate su litigi eccellenti come eterni. Accade in casa PD, a tra poco. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Eppela. Allora, sono le 9.30 minuti, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno e buon sabato da Carlo Gabardini. Questa settimana abbiamo spostato l'orario di Cloud Me Up, è andato in onda in un orario anticipato, trovate tutte le informazioni su queste due storie che cercano il vostro aiuto con il finanziamento dal BAS sulla pagina di Si Può Fare. E ne trovate anche tante altre, oltre a quelle di cui abbiamo parlato. Trovate le altre di cui abbiamo parlato, sulla piattaforma di Apple trovate tutte le altre storie di crowdfunding, ed è bello anche contribuire contribuire e dare una mano. Si può fare anche lo dico la questione, che ce n'è anche tante altre, perché abbiamo parlato di due storie che sono talmente belle che hanno al momento entrambe raggiunto il loro obiettivo e hanno dei soldi da spendere, quindi invece ci sono tanti altri progetti che ancora stanno invece cercando di raggiungere il proprio obiettivo. E poi ci sono tanti commenti, per esempio, in particolare sulla l'iniziativa del ristoratore di Padova, che offre sconti alle famiglie che hanno bambini ben educati, che non fanno a suo insindacabile giudizio, ricordiamo. E scrive Gabriella da Rapallo: credo che innanzitutto nei ristoranti gli adulti debbano imparare a parlare a bassa voce, il bambino cresce e impara per imitazione, questo anche è possibile, ma i bambini però fanno casino naturalmente. Gabriella, è vero che c'è l'esempio dei genitori, però insomma, i bambini un po' di casino lo fanno, sicuramente bisogna trovare un compromesso tra un po' di sopportazione. Io posso raccontare nella struttura dove sono stato in montagna per una settimana con due figlie, una di 5 anni e mezzo che saltella quella, l'altra che butta tutto per terra, di 1 anno e 2 mesi, e devo dire che sono stati tutti molto gentili, disponibili, e insomma ci hanno accolto col nostro casino creativo. Poi non so se mi sarei meritato lo sconto di Antonio Ferrari alla sua enoteca a Padova oppure no. È questo il bello, che ormai ci saranno anche famiglie che, per vedere se la loro educazione è accettabile o meno, fanno il test, vanno in enoteca e poi vedono se c'è il 5% di sconto. Evidentemente va tutto bene. Luca da Verona, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Niente, io mi riallacciavo a quella che può essere più che un litigio, una schermaglia. Sì. Occorsami qualche tempo fa, a proposito della convivenza uomo-animali. Sono un ciclista e nel periodo estivo è naturale abbeverarsi a varie fontane e ci si ferma per riempire la borraccia. Eravamo un gruppo e ci siamo messi in coda perché eravamo in un paese, e un attimo prima di noi c'era un signore che ha fatto bere direttamente dal rubinetto il proprio cane, che si è attaccato, cioè ha messo la bocca attaccata alla... Ha slinguazzato. si può dire. È molto preciso. Mi perdoni il neologismo. In sostanza noi siamo rimasti un attimo ribasiti e abbiamo detto se non fosse il caso che magari educatamente si portasse una ciotolina a cui attingere l'acqua e far bere separatamente il proprio cane. E il padrone di questo animale ci ha apostrofato in maniera molto severa, se non addirittura proprio con grande acredine, dicendo che il suo cane era più degno di tutti noi di poter bere. Ah. Al che mi sono chiesto se potevamo essere noi un attimino sputini, ma non più di tanto, perché io bevo tranquillamente dalla borraccia di un qualsiasi ciclista nel momento in cui ne rimanga senza. Io ho avuto io stesso un animale in passato e lo consideravo un appendice della mia affettività. Forse mi ha indotto ad una riflessione il comportamento di questo signore, perché più che un appendice della propria affettività lo considerava proprio la sua affettività, e probabilmente ci avrebbe anche mangiato insieme con le stesse posate nello stesso piatto. L'importante forse era che non pretendesse che ne facesse. Cioè, io ho capito una cosa, esatto, stamattina, forse ho capito questo. Che il secondo motivo di litigi in Italia dopo le questioni interne al Partito Democratico sono gli animali. I cani, animali, cani, ciclisti, ma anche persone comuni. E questa è un po' la morale di stamattina, caro. È una bella unione di tutte Luca, le storie, sì. No? Sia i cani, sia l'educazione dei padroni nei confronti dei cani, sia i litigi. Quindi c'è va tutto. Bene. Grazie anche a te, Luca. E poi, insomma, entro la fine della puntata diremo qual è l'ascoltatore che ci ha coinvolto di più con il suo racconto di una litigata storica. La stiamo ancora un po' aspettando, perché sì. In realtà. A me la prima mi ha coinvolto. Noi molto, ci aspettiamo racconti di quelli dove per 10 anni, 12 anni non ci si siede a tavola uno vicino all'altro a Natale, e poi finalmente si capisce che il litigio era tutto per un motivo futile di 26 anni prima. E quindi la situazione si scioglie. Questo tipo di storie non ci piacerebbe ascoltare. Tu, Carlo, vorresti che Bersani e Renzi alla fine di tutto questo dicessero: abbiamo scherzato, stiamo insieme. No, tranquilli. questo non lo so, ma sicuramente mi piacciono quelle storie. Molto spesso tutti noi discutiamo, poi magari per motivi di principio, e poi scopriamo che la scintilla scatenante era veramente una stupidata. Sono passati magari un certo numero di anni ed è folle stare lì ancora imbronciati, non salutarsi, e per allora, una cosa che non interessa più a nessuno. Se avete un racconto, 800 24 00 24. I remember when I lost my mind. E allora, cari ascoltatori, vi ricordate quando vi parlammo della Coppa del Mondo, la più pazza Coppa del Mondo che si tenne di calcio ad Osaka l'anno scorso? Ve la presentammo parlando con l'allenatore di quella squadra di calcio. Adesso esce un docufilm su quella esperienza. È con noi di nuovo Enrico Zanchini. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. E allora, è con grande piacere che raccontiamo gli sviluppi di questa storia. Intanto però, forse la curiosità anche di sapere com'è andata a finire quell'esperienza, perché noi ci sentimmo prima. Ma io non ve la levo questa curiosità. Bisogna vedere il video, lo so. Perché bisogna andare al cinema, sì, il film esce il 20. Dai, però un po' di spoiler lo possiamo fare, qualcosina. Guarda, già sono stato pesantemente cazziato, come si dice a Roma, dal regista, perché in un'intervista avevo raccontato, quindi... Non voglio che poi appena attacco lui mi chiama e mi dice: che hai fatto? Ma come, intanto salutiamo Wolfgango De Biasi, il regista del film, che starà quindi sicuramente ascoltando o registrando per poi venire sporgere a sgridarti. Querela. Quindi Enrico Zanchi, tu sei alla concorrenza, hai raccontato come è andata a finire, a noi lo racconterai. Ma questa è la sostanza. All'epoca non ero così navigato come adesso, questa celebrità ancora non mi aveva coinvolto, quindi non sapevo nulla. Allora diciamo nei limiti del possibile... Esatto. Fuori di querela, a parte del regista di questo docufilm Crazy for Football, cosa si vedrà? Qual è lo spirito? Allora, no, per tornare un po' più alle cose serie, si vedrà un'avventura meravigliosa, un gruppo di ragazzi cominciano a formare una nazionale. Vengono 40 ragazzi da una serie di strutture che ospitano i pazienti psichiatrici in Italia. Di questi 40 ragazzi selezioniamo un gruppo di 12 che nel giro di un mese, con gli allenamenti durissimi da un punto di vista atletico di Vincenzo Cantatore, che è molto più importante e famoso di me, e da un punto di vista tecnico-tattico di calcio a 5 da parte mia, vengono preparati e inizia questa avventura in Giappone. E tutto questo percorso, compreso le partite che si giocano lì, che abbiamo giocato lì in Giappone, vengono raccontate in questo filmato, in questo docufilm, un vero e proprio documentario di un'ora e un quarto, che esce lunedì in 40 sale italiane. Che già è un successo incredibile, sì. Diciamolo, insomma, 40 sale è ottimo. Non è poco, siete stati presentati in anteprima al Festival del Cinema di Roma, giusto? Giustissimo. Ricevendo parecchi minuti di applausi, quindi un grande coinvolgimento da parte del pubblico, non stentiamo a crederci naturalmente. Che tipo di persone sono le persone che avete selezionato per giocare a calcio in questa Coppa del Mondo di Osaka? Si tratta di persone che hanno patologie anche riconosciute, in alcuni casi certificate? No, assolutamente. Proprio il comitato organizzatore aveva individuato tre aree del disagio psichico, che sono i disturbi bipolari, la depressione e la schizofrenia. Quindi erano proprio ben individuate. E tutti i miei ragazzi hanno una o anche più mischiate di queste problematiche. Sentiamo un attimino, abbiamo l'audio di due grandi campioni, un ex, credo, del Piero, ormai gioca ancora qualche paio, no, non gioca più. No, non gioca più. E Totti, sentiamo come raccontano, come lanciano anche questa docufilm, questa esperienza che vi vede protagonisti, Enrico. Ciao ragazzi, presto al cinema Crazy for Football. Un documentario assolutamente da vedere, una bellissima storia di vita e di sport per chi ama e per chi non ama il calcio. Io l'ho appena visto e devo dire che è molto molto bello. Vi suggerisco di andarlo a vedere. A presto, ciao. Mi raccomando, andate a vedere tutti Crazy for Football. Crazy for Football, mi raccomando. Crazy for Football, mi raccomando, non mancate. Secondo me Totti potevate prenderlo, è un po' bipolare. L'altro giorno sul palco di Sanremo gli è venuto fuori che Ilary Blasi, sua moglie, conduceva un programma che non ha mai nemmeno visto, credo, in televisione, quindi è un po' pazzo. Vabbè, una dimenticanza. Io invece volevo chiederti un'altra cosa, siccome addirittura stiamo parlando della nazionale italiana e quando si parla di nazionale italiana, come ben sai, ci sono 60 milioni di allenatori in questo paese. E spessissimo si dice, quando bisogna fare le squadre, bisogna fare anche gruppo, bisogna fare spogliatoio, bisogna scegliere delle persone. Ecco, in un caso di pazienti psichiatrici, immagino che questo sia ancora di più così, il fatto che al di là delle qualità del singolo giocatore bisogna anche creare una sinergia, il fatto che questi 12 siano in grado di portarsi a casa una partita tutti insieme. Come avviene questo? Guarda, questo è un altro aspetto molto bello che nel film si vede veramente in maniera molto chiara. Non ho ancora visto il film, confesso. Infatti... Però qualcosa puoi raccontare. Sì, perché ci sono stati dei momenti difficili in cui ci stava soprattutto un ragazzo che un po' tendeva a spaccare lo spogliatoio perché aveva atteggiamenti un po' aggressivi, molto critici, però... Il fatto anche di aver vissuto insieme per 10 giorni, dormito insieme, mangiato insieme, ha contribuito veramente a cementare il gruppo. Sembra una frase fatta, ma in realtà è successo proprio questo, come succede poi diciamo nelle squadre di tutti i livelli. Stando insieme si capisce che bisogna rinunciare a qualcosa di sé per l'interesse generale, e questo molto faticosamente siamo riusciti a farlo, diciamo anche a prezzo di litigi, di confronti anche molto duri, e siamo stati addirittura indecisi se portare poi questo ragazzo in Giappone o no. Poi l'abbiamo portato anche lì, lo si vede anche questo nel film, lui sì. A un certo punto si rifiuta di giocare perché io non ecco, lo questo entrare. Mi sembra molto interessante il tasto che ha toccato Carlo e che tu ci stavi un po' svelando, perché ti voglio chiedere, questo Crazy for Football, questo documentario in cui si vedono ragazzi con problemi psichiatrici che giocano a calcio, svela qualcosa anche del calcio che magari non sapevamo, cioè l'altro lato della medaglia, perché noi normalmente quando vediamo una partita di calcio vediamo solo l'aspetto tecnico spettacolare, meno magari i risvolti psichici o anche emotivi profondi, le frustrazioni che ci possono essere dietro, anche le debolezze mentali di ognuno di noi. Questo viene fuori attraverso questo documentario? Sì, secondo me viene fuori in un doppio senso. Da una parte capire che appunto anche dietro ai grandissimi giocatori, ai super professionisti che si allenano, diciamo, ci sono poi quegli aspetti umani che ne condizionano la prestazione e che il pubblico, i tifosi anche spesso non riescono a tenere conto, da un figlio che sta male, a un problema con la moglie, a un problema con l'allenatore, al contratto, a mille cose. E dall'altra il fatto che invece anche in una squadra del genere queste sono dinamiche di gruppo che sono assolutamente normali, cioè chi è scontento per l'esclusione, chi pensava di poter entrare invece non lo ha fatto, e questo è successo anche lì. Poi nel calcio a 5 ancora di più, che è uno sport ancora più certo. E comunque da questo punto di vista, che questa esperienza possa far bene al calcio professionistico anche in prospettiva, anche a forza nazionale maggiore di calcio, lo dimostra il fatto che c'è un dialogo con Tavecchio, per esempio, siete stati riconosciuti come nazionale ufficiale, tanto che si parla di organizzare il mondiale 2018 in Italia. Si è riunito questo, si è costituito questo board in Giappone e ci si è dato appuntamenti ai mondiali che sicuramente si faranno in Italia nel 2018. E la quindi si faranno in Italia, questo si può già dire. In Italia si può già dire, la Federazione Italiana Gioco Calcio, devo dire, ci sta dando un sostegno incredibile. Pensate anche per questi ragazzi, in Giappone sono andati con il materiale ufficiale della nazionale, con l'inno nazionale prima delle partite, a rappresentare il proprio paese. Quindi diciamo, sarà una nazionale diciamo sui generis, ma comunque loro sono andati lì a rappresentare l'Italia, e per chi fa sport giocare un mondiale con la nazionale è assolutamente il massimo, come ben sapete, insomma. Quindi E ricordiamo anche a tutti che in realtà è un progetto che è partito nemmeno tantissimo tempo fa, perché nel 2004 Wolfgango Di Biasi fece un altro cortometraggio che era Matti per il calcio, e da qui poi è nata erano 30-40 squadre che esistenti in Italia, e da lì invece sono diventate migliaia e migliaia. Ricordiamo che il campionato si è fatto in Giappone perché anche in Giappone ci sono 600 squadre formate da pazienti psichiatrici, quindi è un fenomeno gigantesco. Soprattutto in Giappone, perché lì quando fanno le cose non sono come noi, le fanno seriamente. E è partito tutto da questi due amici, Wolfgango De Biasi e Francesco Trento, e dal dottor Santorullo, che è un po' l'arma di tutto il progetto, che hanno girato un piccolo video appunto 10 anni fa che si chiama Matti per il calcio. Raccontava esatto. La storia di una squadra di una ASL di Gabbiano che faceva un campionato di questi amatoriali, diciamo. da lì è nata questa idea della calcioterapia, perché questo documentario non ha avuto grande successo in Italia, ma l'ho avuto all'estero, e in Giappone è partito questo movimento, e quasi ogni squadra professionistica giapponese ha una sua correlata squadra di questo tipo. Che è una cosa che tra l'altro sta accadendo lentamente anche in Italia, perché abbiamo dato notizia forse non più di qualche settimana fa di una sorta di lega di Serie A di squadre, sì, il progetto quarta categoria, esatto, che sta partendo proprio in queste settimane. Ci sono già alcune squadre anche di Serie A che hanno istituito la loro squadra con pazienti psichiatrici, e non tutte, per la verità. Noi siamo indietro rispetto al Giappone, questo si può anche dire, però ce ne sono già alcune che lo stanno facendo. Però facciamo i film migliori su questa tematica. È una tematica che a me sta molto a cuore, avendo io anche girato un film dove facevo il matto, e tra l'altro è un film che si intitola casualmente, possiamo dirlo. Ale, Si può fare, è un film di Giulio Manfredonia, e quindi è una tematica che mi sta molto a cuore. Volevo farti una domanda stupida, ma anche gli arbitri sono pazienti psichiatrici, oppure come direbbe qualche tifoso offeso, i pazienti psichiatrici li avete lasciati tutti in Serie A fare gli arbitri? Gli arbitri sono stati non erano pazienti psichiatrici, e anche quello è stato, secondo me, per i ragazzi un grande segno di serietà. Tutta l'organizzazione giapponese, io un po' ho giocato a questo sport a livelli, diciamo, anche discreti, ed era assolutamente dava proprio l'idea di un vero campionato del mondo, il cronometrista, i tre arbitri, l'organizzazione, e questo è stato un altro, secondo me, punto forte, perché questi sono semplicemente sportivi, ragazzi che fanno sport e che fanno competizione. Molto giusto. E allora andiamo tutti a vedere Crazy for Football appena possibile, cioè a partire dal 20, credo. Lunedì 20. Anteprima in 40 sale italiane, e poi le sale che lo confermeranno sempre, lo programmeranno, speriamo più possibile, da giovedì 23 fino a domenica. Perché credo che abbiamo tutti qualcosa da imparare, oltre che divertirci vedendo questo documentario. Grazie ad Enrico Zanchini, allenatore della squadra italiana, che è stato con noi ancora una volta. E poi ricordiamo naturalmente il regista, ancora una volta, Wolfgang De Biasi, e tutti quelli che ci hanno lavorato, naturalmente. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo tra pochissimo. Pierluigi da Udine, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Eccoci qua, prego, su cosa volevi intervenire? Beh, innanzitutto volevo intervenire sui litigi annosi, diciamo, bisestili. Sì. Ma innanzitutto volevo fare dei complimenti, perché sinceramente, in un panorama radiofonico così popolato dal chiasso, poi siete veramente delle persone piacevoli da ascoltare. Pierluigi, grazie. Noi la mattina ci svegliamo pensando grazie che qualcuno mille. Possa essere come te, contento di quello che facciamo. È tutta il nostro, la nostra forza ce la date voi. Chi è che diceva questa cosa? Il pubblico, il programma siete voi. Tutti direi che lo dicevo. Però a noi fa particolarmente piacere, perché remiamo un po' controcorrente con queste notizie. Vai Pierluigi, vai. Seconda microparentesi, se avete occasione di guardare, parlo al pubblico, si può fare il film con Carlo, è veramente stupendo, quindi nel panorama cinematografico italiano, che non è sempre così piacevole, diciamo, è un film fatto molto bene. È un film bellissimo. Grazie mille, adesso mi commuovo, adesso non era preparato tutto, esatto, questo, ovviamente è un film del 2008, quindi non è in promozione, però ti ringrazio molto. Basta, perché sennò dicono che sia una telefonata concordata. È un po' di tempo che volevo dire queste cose, non ho trovato il tempo di chiamare. Allora, si tratta del 1994, io sono un cantante rock, sempre. Preparati un acuto, qualcosa, per un pezzo. Facci non sentire. Sono alzato, poi non ce la fai. Reduce dall'influenza, non ce la faccio. Dopo eravamo veramente delle promesse. Ci chiamavamo Breeze, avevamo trovato finalmente una persona che credeva in noi, ci aveva finanziato la produzione di un disco. Insomma, arriviamo al dunque e ci sciogliamo. Litighiamo furiosamente. La scissione, esatto. Che è tipica in tanti gruppi musicali, si litiga sempre. Anche nel PD, no? Noi siamo partiti. Ma perché litigavate? Perché no, per la linea musicale? Per che cosa? C'erano due correnti per soldi? Di pensiero, diciamo. Chi voleva continuare a fare rock in inglese e chi voleva iniziare a fare rock in italiano. Tanto per essere... E tu in quale linea ti collocavi? Era una questione culturale, ideologica, sì, insomma. Sì, Sì, eravamo giovani, però dovete capire che avevamo meno di 20 anni, quindi eravamo ancora molto giovani. Ma tu in quale filone stavi? Italiano o inglese? Io stavo nel filone italiano. Ecco, bravo. Ma adesso non suonate più, non vi incontrate più, è finita allora, tutto lì? È qui il bello della storia, ecco, che ecco. Potrà stuzzicare la vostra diciamo fantasia. Dopo 20 anni esatti, sì. Nel 2014, dopo che chiaramente viviamo abbastanza vicini, nel raggio di una quindicina di chilometri, quindi ogni tanto ci si incontrava singolarmente io col chitarrista. Ma vi guardavate ancora in Cagnesco dopo tutti questi anni o no? Ma anche no, diciamo si era lentamente ricomposta questa cosa, andava scemando questo astio. Ecco. No? E dopo 20 anni? Dopo 20 anni ci incontriamo casualmente, 4 su 5, nello stesso locale, e dico casualmente. Sì. Ci guardiamo e diciamo, beh, questo deve essere un segno del destino. Ci siamo rimessi a fare musica insieme con risultati che sono, a mio avviso, molto, molto soddisfacenti. Adesso stiamo uscendo con un disco che... Ma che meraviglia, no? Vabbè, no. Ma è straordinaria questa storia qua. Questa storia, Pierluigi, è tutta inventata, ovviamente, perché è troppo bella per essere vera. Assolutamente no, e ne ho le prove. Se posso farmi un minimo di pubblicità. Certo! Pagina Facebook, 5 in punto, tutto attaccato, scritto in lettere. 5 in punto, il nome del gruppo... che si è appunto rimesso, e c'è anche un accenno a questa reunion. Però scusa, quindi ha vinto la tua linea 20 anni dopo in italiano. Ma guarda, ti dirà, sembrerà assurdo, ma per ricominciare abbiamo rispolverato alcuni dei vecchi successi che erano in inglese, dicendo quindi... non parliamo d'altro, non rimettiamoci a parlare. No, aspetta, in inglese e poi? Erano in inglese, quindi il primo disco sarà in inglese. Abbiamo già però un contatto per farne un secondo che sarà in italiano. Quindi penso quindi il compromesso. Quindi è successo quello che diceva Carlo stamattina, cioè che vi siete ritrovati, vi siete guardati in faccia e avete detto: ma in fondo, ma perché ci siamo divisi? Per una cosa, ma perché? Alla fine dei conti. Forse non proprio così, però alla fine si è ricomposta questa frattura dopo 20 anni. Ma è tornato anche il quinto o siete 4 su 5? No, il quinto non è tornato, ma è una persona molto impegnata anche politicamente, quindi... Perfetto. Sta litigando dentro il PD? No? Non diciamolo, perché se si scopre che il quinto è D'Alema diventa un problema. Sarebbe meraviglioso, sarebbe una chiusura del cerchio straordinaria. Pierluigi, sicuramente il premio è tutto tuo. Il premio è tuo, assolutamente. Allora, Bass Post, Stefano Benni, vabbè, poi vediamo se magari anche a qualche altro ascoltatore ha chiamato questa mattina, mandiamo qualche altro libro. Volentieri, poi si sono rincontrati al bar, 4 su 5, quindi è proprio perfetto. Esatto. Complimenti. Grazie mille e buon sabato. Allora metteremo sicuramente un pezzo dei vostri prima o poi nella parte musicale. Si può fare quando cerchiamo e si può fare in musica, Mandateceli. Ricordaci il nome del gruppo. 5 in punto, tutto 5 attaccato. In punto, bellissimo, grazie, grande. Allora, un ringraziamento va naturalmente anche ad Andrea Piana, Claudia Schiattone in redazione, autori e quant'altro, Carmelo Lauricella in regia, siamo di corsa, Alessio Maurizi, ciao, a domani. Ciao da Carlo Gabardini, anche a chi ci ascolta in podcast. Ciao.